Chella. Ciao Natali, ma qualcuno dal ponte Rosello si stava buttando? Fece via, vigili, ambulanza. Vedi, quello si sta buttando, Carlo. Vuol dire che non gli hanno dato il reddito di cittadinanza. Ragazza, ragazza, non è. Allora, bubu. Intanto se vuole buttare qualcuno. E adesso sto andando a lavoro, sono salito da, diciamo, da via Sorso, no? E ero lì al semaforo fermo all'incrocio con via Pascoli, proprio dove inizia il ponte Rosello, vedevo i lampeggianti, poi sono scattato il semaforo, ho buttato l'occhio e c'era una pattuglia di polizia, una dei vigili del fuoco, i vigili urbani più un'ambulanza, tutte con lampeggianti accesi. La polizia e i vigili che stavano guardando giù e hanno deviato anche il traffico, visto. Vuol dire che si è buttato, se no avrebbero volato giù, no. A meno che non sia cadendo il ponte. E io stanno verificando qualcosa, non ne ho la, però c'è l'ambulanza, capite, quello che mi ha fatto pensare a qualche gesto, purtroppo. Sì, non è il primo che si vuole buttare, poi ci ripensami. È già successo una volta che io non si stava buttando, l'altro l'ha preso al volo e poi ci ha ripensato e alla fine non ce la faceva più, ha preso e ha mollato la presa e ci è sceso giù, ci è sceso. Purtroppo lì più di uno di gesti così ne ha fatto. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, non di più, anche un ragazzo dello scientifico che è stato alunno di mia moglie, lo cercavano, erano insieme, era uscito insieme agli amici, gli hanno detto ti accompagniamo, eccetera, no, vado da solo. Poi il padre ha iniziato a telefonare, dove non è, l'ho trovato là. Figurati. Oramai non c'è testa, capito? Tra crisi, tutte queste casine che ci sono, la gente ormai è stressata, mi capito? Tra cubi, le cose del genere, o c'è quello che ammazza la moglie, c'è l'altro che ammazza un fidanzato, o c'è che si butta. Sì, stavo ascoltando la tua voce, è migliorata la radio, molto bene. Antone, molto bene, infatti mi sembravi natalino prima, come hai risposto. Perché hai sentito il segnale forte, ecco perché mi sembrava natalino. No, non sono natalino, sono Antonello. Ho visto che c'è il tempo così, c'è fuori. Ogni tanto appena l'acqua, anche lo deve avere piovuto tanto però, perché c'erano tuoni e fulmini da quella parte lì, verso Bosa. Può essere, io adesso sono in viale Porto Torres, diciamo sto girando verso cimitero, ancora sono dentro Sassari, qualche goccia c'è così, ma diciamo che sta facendo caldo, 24 gradi già va bene. Ah beh, quello sì, dunque verso Alghero sta arrivando acqua, più che altro. A partire dalla parte di Alghero, Bosa e cosa del genere, sta arrivando un po' di acqua. Poco fa ho sentito i tuoni, ho preso e sono uscito 5 minuti, ho preso tutto che scende all'aria. E invece ha fatto 4-5 gocce, una mezz'oretta, 5-6 tuoni dalla parte di Ittiri. Dopodiché adesso sta migliorando un po'. Sì, vedo che è aperto qua il cielo, c'è qualche nuvola in giro, però è aperto. Vabbè, quello sì, è aperto. Uia. Per carità, quindi stai andando a lavoro, stai andando. Sì, esatto, adesso sono dove c'è prima del vialetto, là, in quel rettilineo. C'è 9:20 quasi. Diciamo che per la città questa radio quando sono in macchina già va bene, è che quando ti allontani un pochettino allora perde perché non ha troppa potenza. Lì c'era voluto un bel S4005, un 3009 nuovo, piazzato in macchina con l'antenna più grande, e avessi fatto 13 con l'aiutino. Capito? Sì, comunque l'antenna più grande ce l'ho, l'antenna più grande ce l'ho, è per questione di praticità che non la metto in macchina, perché poi mi tocca piegarla, capito? Beh, una volta che arrivi nei punti bassi, per forza devi piegarla, specialmente quando vai nei supermercati. Invece con questa passo dappertutto, questa anche quando scendo giù alla Conad, ai parcheggi sotto, no, non tocca, vado tranquillo. Sì, già lo so, già. Già me lo ricordo i parcheggi Conad, già. Ci sono entrato con la Turbo 2001, dove sentivo il blang blang blang blang blang blang blang blang. Allora gli ho detto piega, piega tutto prima che si spacchino i neon qua. Infatti la mia macchina, diciamo, è anche abbastanza altina dietro, e io la metto, diciamo, sulla parte centrale della macchina. In città vado bene, anche fuori città, anche fuori città, però se mi alzano molto poi non so. Vediamo adesso sin dove mi senti. Adesso sono davanti a Conforama, Antonello. Ok, quindi fai la strada nuova per Alghero, mi sembra, no, giusto, se non mi ricordo male. Vuoi fare la strada vecchia? No, la nuova faccio. Fai la nuova, poi arrivi a un certo punto e giri per Fertilia. E per pratica ti imbocca nella strada vecchia. Faccio la nuova. Oggi ci sono un po' di camion qua, Predanietta. Stanno facendo rifornimento, stanno facendo. Certo, già ci abbiamo... Ci siamo messi bene già, Sai che sto facendo un sorpasso? Sì, a fare il sorpasso, fai il sorpasso. Eccoci qua, perché c'era un tir grosso, più un camion, un furgone davanti e altre macchine, tutte camminando a passo d'uomo. Sì, perché già lo sai come fanno. L'altro giorno ho visto una ruota, ho visto. Deve essere la roba lì fuori. Si è messo a soppassare la 131 e a quasi a 100. Hai capito? E c'aveva la fila dietro, c'aveva. Gli ho detto, questo si mette a soppassare a 100. Dopodiché già l'ha capito che c'era gente dietro, ha preso e si è messo dall'altra parte. E adesso, da questo momento in poi, fino a settembre, ottobre, pure, si ha roulotte per... In Sardegna se la gira tranquillamente, capito? Perché è la situazione quella. Quello sì, che c'è un ruolo di campo, adesso si rivede, va nei luoghi giusti, mette la ruota dentro, paga, se ne può andare tranquillamente al mare, cucina, fa quello che vuole, pure in finestra, quello che è, e si rivede. Conosce un po' la Sardegna, che va nei posti parcheggia a ruote di notte, non gli rompere balle nessuno. Aspetta un attimo il telefono. Carlo, ti devo lasciare, mi ha chiamato Simone, vado a prenderla, che da come si chiama, da quello che fa l'estetista. Ci sentiamo stasera quando diventi, tanto diventerai verso le 8, le 10, così è. Quindi fai la notte stanotte. Ancora sono dormito via. Vabbè, ci sentiamo domani allora, dai. D'accordo, ciao. Buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo domani mattina. Appena ti alzi, d'accordo? Vabbè. Ciao Carlo, buon lavoro. Marco, ciao, buon lavoro, buona serata, ci sentiamo. Ciao Marco, saluto di ben entrato. Adesso non so più neanche con chi sei, ma comunque riprendi tu che stanno a prendere la Simona. Ci vediamo dopo. Ehi, ciao Antone, ciao anche a te. Beh, Marco. Sì, Eugenio, tu sei, c'è un'alternata forte se sei tu. C'è un'alternata? Sì, ma non ho riconosciuto se sei Franco o Eugenio. No, Franco, aspetta, anche adesso c'è l'alternata? No, negativo, adesso no, sei Santiago 7 senza alternata, prima eri 8, abbondante anche, però con un'alternata, tipica alternata, dai. Capito. Sì, io ero entrato a salutare Carlo che stava entrando a lavoro, io stavo pranzando adesso, mi sono fatto il brodo con il pollo, la cipolla, le patate, insomma, brodino il pollo, dai. E mi sto per pappare il pollo adesso, me lo sfiletto, il cosciotto. Ma faccio un caldo, guarda, io sono sempre a petto nudo, ne ho già le scatole piene dell'estate, guarda. No, non è neanche cominciato ancora, ancora c'è l'alternata. Premi. Marco. Sì, tieni premuto. No, no, sparita. È sparito, ok. Avevo troppa potenza, no, gli stavo dando. Sì, che ti sento. Ah, K, sì, sì, sì. Sei basso però, Basso ancora per essere lì. Ehi, K, va bene, dai. comunque, piano, poco a poco già ti tiro fuori. A meno che non c'è qualcuno che ti sopramodula. Di nuovo, Fra. Sì, ciao Carlo, ti ascolto ancora. Santiago 6, Santiago 6, facciamo Radio 3, dai, perché c'è il QRM e anche QRN c'è qua. Franco, guarda che non sia roba di microfonia invece. E allora il microfono, dai, aspetta. Ok, adesso dovrebbe essere a posto, così è Marco. Sì, adesso mi sembra perfetto. Ma cos'hai toccato? Microfono, connettore di microfonico? No, niente, ho cambiato microfono. Sì, però lo faceva a tratti, capito Fra? Qualche massa in perdita c'è, o come si dice là, io non intendo. Cappa. Qua sembrava che dovesse piovere, stava diventando il cielo nero, invece non ha fatto dopo niente dopo. Va bene. Cappa, avanti il break. Avanti il break? No, forse era sovraondulazione, non break. Cappa, ciao. Vai. Guarda, sei di modulazione, sei bassissimo. Sì, una modulazione normale. Sì, adesso ho aumentato leggermente. Ok, dai. Ciao, buona guida. Avanti Marco. Ma chi era Carlo? Perché qua mi è sparito se era lui, No, non era Carlo, era Mario della Porto Torres. Aspetta a vedere se c'è Carlo. Carlo, ci sei ancora? No, negativo, non lo tiro più fuori se sta parlando. No, nemmeno io. QRM a 4. Vabbè che questi apparecchi moderni sono alquanto rumorosi, C'è anche di notte fonda, no? Proprio di notte fonda, quando tutti hanno spento tutto, no? Tu accendi l'apparato QRM3. Mi ricordo, sai cosa? L'FM500S. Quando lo mettevi in casa, anche di notte fonda, negli anni 80, che disturbi non ce n'erano, QRM era sempre a 3, era come proprio il rumore del ricevitore. Invece il 3009 non è così rumoroso, infatti in macchina il 3009 è sempre migliore, non c'è niente da fare. Cappa, sì, me lo ricordo, ho avuto l'FM500S, era la prima radio che mi avevo comprato, quella lì. Ed era sempre con QRM quella lì. E vabbè, però era una bella radio. O gli splatter che prendeva, il battimento mi qua in città era una cosa folle, una cosa invivibile. Pensa che l'avevamo preso nell'86 per la concessione, 1986, e ce l'avevo fino a pochi anni fa, funzionante tutto, e l'ho regalato a Pomponio, tutto completo, e mic originale, staff originale, pomelli originale, cavo alimentazione originale, tutto. Cappa, no, io ho solo il microfono originale di quello, solo il microfono, il resto non ce l'ho più. Ah, credo che addirittura di avergli dato la scatola originale dall'86, quale gabbo. Cappa, è difficile mettere a parte quella, Io sono, purtroppo io sono uno che accumula anche, che sempre mi dice cosa, ma perché non butti tutto, prende spazio, però a me piace tenere tutto gli apparati, ogni singola vitina, sia le vitine della staffettina microfonica, no, quella che metti in macchina o in stazione, tutto, istruzioni, a me piace tenere tutto, in modo che se lo dai in futuro lo stai dando completo, invece tu vai sui forum, e ogni apparato che ti vendono, allora manca la staffa e già in macchina non le puoi mettere, a meno che non te la fai artigianale ed è una rottura di balle. Niente pomelli, niente microfono originale, cioè alla fine ti danno un apparato nudo e crudo, senza microfono, oppure te ne danno uno, il tracco baratto. La staffa te la devi fare tu o comprare, che ti costa più del baracchino. E così, dai. E fai prima a comprare, a farti delle staffe, tanto non è difficile fare una staffa. Sì, però sai, rotture di balle, io poi qua non c'ho una stanza da lavoro, poi sai, gommini originali, quelli per in modo che la staffa non graffi l'apparato, tutto, io sono un fanatico da quel punto di vista, tengo qualsiasi cosa, infatti sembra un magazzino, sai cosa sembra la camera mia, è presente la GBC, certo non sono a terra le scatole, ma sono negli armadi, sugli armadi, tutto scatole di roba originale, capito? Se sei come la GBC si è messo male, perché la GBC non si può mai entrare. No, vabbè, non a quei livelli, ma per far capire che conservo anche troppa roba, più di quanto ne debba conservare. Fra, io staccherei così mi finisco il pollo. Sai, sentiamo quando capita. Ci sentiamo, buon pranzo. Ciao. Ciao, buon proseguimento di serata, ciao ciao. Ciao. Attenzione Carlo! Attenzione Carlo! Natalino col cuomane, Natalino Pirivella. Lungo quello che mi hai dato tu, e ti ho dato anche l'altro per caso, perché non mi trovo più quello corto. mio blu. No, no, mi ha dato uno solo. E mi ha tolto la... lo spinotto, quello a 8 mi ho tolto, perché mi ho fatto la prolungata per questo qui. Sei sparito, sparito. Quando lo cerchi la cosa, ma te lo fai, sparito. C'è il microfono, c'è il cavetto, guardate nei cassetti a tutte le parti. Disegno. Se vuoi te lo torno, quello lì, ti fai mettere lo spinotto e via. No, no, non mi serve quello, Natalino, mi serve, c'ho il mio io. C'ho il mio, capito? Ho il mio anche, per quello che ho restituito. Era una prova che volevo fare con il cavo diretto. Ho il mio anche. Però non riesco a trovarlo, ho guardato nei cassetti a tutte le parti. Non riesce a guardarlo. Non mi sai tu. Che vuoi che ti dica? Questo qui mi è uscito bene. Questo di qui. C'è un cavo grosso grosso che l'avevo pigliato da Fusaro. Però non entrava il coso, quello della rete, RG45, e allora gli ho messo due spinotti a 8 e me l'ho fatto per qua, ma è bello davvero questo, Non è bello anche quello che ha fatto Franco, lo stesso capo grosso, schermato, ma molto bene, lo uso col 820H, con l'ICOM, capito? Non le metto l'adattatore perché... io ho più tempo di Piccolo, quindi non si sa mai che se blocchi qualche MC60 c'ho il cavetto, il microfono pronto, capito? E non si sa mai che il microfono, glielo vedi, come funziona. Lascia appena si libera Fabrizio, sta finendo delle cose urgenti, mi faccio togliere quell'interruttore e lo faccio mettere diretto. Perché non va bene? No, si blocca ogni tanto, anche lì si blocca. Anche con quel interruttore che gli ho messo io si blocca lo stesso. Si blocca, evidentemente anche quello lì non serve. Se è nel cassetto vuol dire che l'ho tolto da qualcosa perché non funzionava. Capito? E quindi lo faccio mettere diretto, nelle linee. Lo elimino, glielo lascio attaccato per il buco e tutto, però non senza essere collegato, glielo faccio mettere diretto. Roberto Quadrato non ce l'ha così, avevo già fatto un esperimento di anni fa, Roberto gli ha dato un microfono, ce l'ha anni, mai gli si è bloccato, mai, capito? Perché già da anni che succede questo problema nei 60. E avevamo fatto un esperimento con Carlo, con lui Chiaramonti, aveva tolto, eliminato e messo diretto. E poi è capitato che ha volato il microfono a Roberto, non mi ricordo perché, comunque gli ha volato io. Forse quando avevo preso 440, ma all'inizio, un bel di anni. Non c'era il microfono e avevo io, gli ho dato quello. È diretto, non si è mai bloccato, mai. Non si può bloccare se è diretto, capito? Perché non ha il pezzo. Almeno che subisce l'usura, capito? Ma mai c'è questo cazzo interruttore, cosa serve? Niente. Se tu fai conto che anche se in amplificazione cambi l'adattatore, metti l'adattatore prende a 50-500, la radio ti si abbassa, è come te lo stai usando meno amplificato, capito? C'è un microfono amplificato perché c'è questo interruttore, stacca e attacca, non serve a niente. Io li faccio modificare tutti, li faccio mettere diretti uno per uno. Prima ne faccio fare uno a Fabrizio, così vedo come l'ha fatto, perché mio figlio lo fa a regolarate e poi lo copio, lo faccio uguale, gli altri me li faccio io uguali. Che bravo. Com'è? Che bravo. Che bravo chi? Che lo copi. Io sono un analfabeta, non è che sono bravo a fare così, io lo ammetto, invece c'è gente che si mette a fare il bravo e poi fa solo casino. Niente l'appoggio, ciao Claudio, ciao Natalino, non so se c'è qualcuno ancora che ho appena acceso. Ciao Massimiliano, ciao, buonasera, ben sentito. Io dico la verità, io quelle poche cose che so fare le faccio, quelle che non so fare le faccio fare agli altri. Tutto lì, capito? Non c'è bene niente, chi sa fa tutto, non sa fa nulla. Avanti Natalino. Ciao Massimiliano. Massimiliano, guarda a vedere come ti arrivo lì, che ce l'ho fatta a fare quel lavoro. Non lo so, qui mi arrivi, prima mi arrivavi 9:10, prova di nuovo, scusa, forse non ho visto bene. Guarda un po'. Ma perché oggi con noi lo fa? Sono ammazzo pure, mi. Sì, Santiago 8 a picchi di 9:10. Prima eri un po' più forte. E aspetta una. Qual è la tua versione definitiva? Sono andate come erano da andare. Se mi correte dietro. Lasciava 20 fatte però non a mangiare, no, ma per. Ero a 5 ratte, ero. Come l'uso di solito, glielo sto facendo sentire. Così sì, 9:10 a 9:20. E cosa mi dia lui? È buono, buono, va benissimo. Ottimo segnale. Adesso sei con la potenza quella che usi sempre, devi usare 20 watt, poco fa di basso. Aspetta un attimo che c'è il telefono incasinato. Ho aumentato da 9 a 9:10 con 10 watt. Se mette 20 watt fa 9:20. Ottimo segnale, va bene. Sì, sì, va benissimo, a voglia. Grazie, grazie. Io ti sto arrivando sempre bene, sì. 4:30. Sì, Santiago 9 a picchi di 9:05 qua. È la tela vecchia che fine gli hai fatto fare, Natali, buttatela. Ma specchietto, c'è il telefono incasinato. Lasciamo con 20 watt neanche. Ah, va bene, è importante ascoltarsi. Poi va bene, 9, 9:10, 9:20, va benissimo, va. Il problema è quando si aprirà un po' di propagazione, bisogna dare un pelino in più. Dovremmo un pelino in più, non sarà lì c'è un problema. Cava, cava. No, Natalino un po' ha migliorato, non so quanto gli arrivo io, se in ricezione ha migliorato anche lui, sono sicuro di sì. Sicuramente ha migliorato, perché adesso in trasmissione va molto bene anche in ricezione. Anch'io ho aumentato da lui. Cappa cappa, comunque ho sentito Carlo, ha già chiamato l'amico, gli ha detto che gliela fa. Sì. L'unica cosa, sono rimasto un po' così, questa radio è sempre un microfono normale. Non ho capito perché non ce l'ha il microfono normale, cioè non vede una radio senza il microfono normale. Oh, questo non lo so, Cla. Me l'ha detto Carlo, che non c'è il microfono, infatti porta il microfono a tavolo. Così le fa mettere anche lo spinotto. Ma scusa, il microfono normale dove? No, non me l'ha dato, ho detto. Forse glielo deve dare, non lo so. Non saprei, non lo so. Ma a lui ne conviene, se lui non c'è bisogno di portarle il microfono da tavolo. Se lui il microfono da tavolo ce l'ha con i collegamenti Midland, quando apre la radio a sistemarla, dall'interno quel Galaxy, al posto di lasciarlo, attacco Galaxy, lo fa attacco Midland, e così puoi attaccare qualsiasi microfono. Ma ne ha uno di microfono di stando a tavolo, c'è l'MBP5, l'ha comprato da Eugenio, però io l'ho detto procurati il microfono suo originale, perché se ti capita che ti si scarica la batteria, ti si scarica, non c'è la batteria, succede qualche problema al microfono, cazzo, non va il radio, non va il microfono. Una radio, cioè, in dotazione c'è il microfono normale, perlomeno, io li ho sempre dati col microfono normale a radio, ma io posso avere una radio senza microfono. Forse glielo deve dare, non lo so, non so neanche io, però Carlo mi ha detto appunto che, infatti gli ho detto ricordati di portare tutto, anche il microfono, così lo provo, e lui mi ha detto un microfono a palmo, non ne ho. Non lo so, io di questa quando me l'ha mandata Coso, Francesco, io di questa c'ho il microfono originale, originale della radio. Io non c'ho il microfono originale Galaxy, ma tanto Galaxy originale suo, era dentro la busta mai usato perché lui usava il Savelta Master Plus, c'ho anche il Savelta Master Plus che ho comprato, mi sono fatto dare anche quello, capito? Vabbè, forse glielo dovrà dare, non ce l'avevo al momento. No, questo non lo giaccio. Natali, ripreso, vai. C'ha il telefono incasinato, mia moglie, aspetta un attimo. Ah, ok, no, dire di spegnere e riaccenderlo. Io l'ho cambiato il mio. Ci avevo l'altro al cassetto, ma l'avevo dato l'aria. Uguale al tuo. Cos'è il 7, cos'è? L'8, cos'è? No, il mio ha caputo, è claro. Ho dovuto dovuto prendere nuovo anche io, perché l'altro giorno me l'ho lasciato sopra la capota della macchina e ne farà di terra e si sono rotti i cristalli di qui, quindi ho dovuto prendere il telefono nuovo. No, questo l'avevo già da 2 mesi dietro il cassetto. Oggi mi sono deciso e l'ho cambiato, diciamo sempre quello vecchio aziendale, figurati. Allora me lo sono sostituito poco fa, mi ho portato WhatsApp, ho cambiato anche la foto. Invece quella di Pippendo quando era piccolo. E boh, adesso uso quella, che è anche più serio, più insomma. Rispondo più ai comandi, Ido va, o Tanne, il telefono del Tanne, boh, avanti, l'antenne va. Questo è un buon telefono. È come quello che c'avevi tu, quello che ti è caduto. No, io l'ho comprato perché a cambiare le display ci volevo 200 euro e non ne valeva la pena, sinceramente parlando. E quindi mi ho preso, aspetta, questo è il Galaxy Samsung A52 o 53, a valore da mente. Dai, cos'è questo? 52 o 53? 52. 52S, 128 giga di memoria. È già un 5G? Sì, anche io con i viaggi sono già 5G. Quello già sono anch'io 5G. Però, no, il mio, come quello che avevi tu prima, mi sembra, 7, 8, non mi ricordo. Io c'avevo l'S7 e IG, quello un po' sondato nei bordi, là. E guarda quello lì, l'S7 e IG, quello lì. Allora, è l'altra idea. E lì c'era comprato nuovo. Lì c'era il penultimo che hanno fatto, sempre di quella generazione lì, K. Daniel, cosa si abbedendo? La vita, cosa si abbedendo? Lunga vita, cos'è? Chi Daniela? Daniela, se ne conosco Daniela io. No, Daniela mi sta attaccando la roba di lavoro, a lavare la borsa di cui rinascio la triccia. Invece Gaia nel suo compleanno le abbiamo regalato l'iPhone 13, capito, con la rete. E da non ne muovo i telefoni così, no, prima aveva l'iPhone 7 e adesso abbiamo preso l'iPhone 13. Ecco la rete, figlia unica. Vizia lasciai, vizia lasciai. E perché tu non te la vizi? Ne hai una e una ce la viziamo qua. No, è perché è sempre vizia da me. Lo devo viziare. Ecco, devo viziare. Ma c'è per tutto più su di me. Fiata età. K, anda bene. Aspetta. Io nel frattempo mi stavo bevendo una bella Weissteiner fresca fresca, lì, capito? Ancora. Da lunga che l'ha fatto oggi. No, io ti dico che mi ho bevuto un paio stamattina fuori, sto facendo ancora, stasera mi ha toccato. Io mi sono fatto una bella vodichina ghiacciata con ghiaccio e limone, una vodica lemon, ti piace? Sì, no, io non sono schizzinoso, da piccola, non sono un grandissimo bevitore di superalcolici, la verità, sono giusto qui in compagnia così, un'acqua vite, una barricata, una vodka, un Montenegro, una cosa così, ma solo se sono in compagnia, se no io a casa non tocco roba così, non le tocco, giusto una birretta quando arrivo da lavoro, appena sdocciato, claro, una birretta fresca ci sta. No, quella la mattina già, non la faccio, non di pranzo, la giorno e mezza, l'una, così. Mi siedo fuori, un berretto, una sigaretta. No, adesso avevo voglia di altro, è molto dissertante, ma appena mi... Non è non sola, le porte d'aria, tutto dal bar. C'è di tutto nell'altro frigo del caffè, c'è un frigo lì, dove c'è solo bibite, roba da bere. E allora, dico, allora me la volta, un ghiaccio, limone, appena la bodichina, è già te farà bella. Va bene, buono, è di lusso, ci vuole. E io questo mini organizzando, lo sai, a pulire, dove pulire? No, non sto organizzando niente, non ho organizzato niente. Nulla, perché ci abbiamo riunione, quando è? Fine mese forse. Una riunione a 4, perché mi sono per le palle a vedere questa strada, questo ingresso così. Beh, già detto tre volte, ma ancora non batte l'uccidio tutte e tre. Avrini, ciamo, mi volte per la barca mia. Vabbè, però l'ingresso, l'ingresso principale, dici. Allora, dove c'è il cancello sino ad arrivare a dove scendo io. Quella voi è fatta. Tu immagini, hanno fatto i braccetti 6 mesi fa, già si intende il loro rumore dei braccetti a 147. Beh, a 9. Tacca, ragazzi, non bisogna ottenere indipendenti, poi dentro il materiale. Beh, 2 camion di roba e si fa tutto lì. Infatti. Ma se tu mi fai la decina mercante, da mercante, capito? E quindi mi sono il coglione alla fine. Mi faccio la parte mia io, già. Io la parte dell'erba ho tutto fatto, tutto un giro a casa, la parte mia è tutta pulita e ordinata, a me dell'arte, volumi da frutti, vedano loro cosa vogliono fare, non che abbassate né a farlo, casi di tende e quant'altro, a pulire la sala non ci pensa nessuno, vabbè, io non ho detto, ma funzionato. Vabbè, ma non è fatto, claro, siccome entrate tutti dallo stesso cancello, io mi ricordo, io sono venuto una volta solo, però mi ricordo che era messo male, dall'ingresso tutta la salitina era messa male. Inutile che ti fai la parte tua, è messa bene, ma l'ingresso vuole fatto. Cioè mettere 200 euro a testa e via, 104 e si fa lavoro. Lo so, l'anno scorso è stato pulito, quest'anno non è intenzione di sciù, vabbè. Per quanto riguarda la pulizia esterna, me l'ho tutta fatta. Poi la strada, adesso vediamo se ci mettiamo d'accordo, si mette a posto, se no non le butto io i soldi per l'arte, manco per un gatto. Ma no, io come dica? No, mi avvenghi che il gatto mi ammazzini. Cosa Massimiliano? Questo qua, in questo canale, ma non, mai non sento che c'è un qualsiasi locale. Mi ammazzini. Ma che bello, eh? Non mi ha dito, no, Gig. Non mi ha dito, mi viene, non mi rompi le balle. Tutti i canali che vi so. Ma di un'altra, passami. Sì, sino a te. È 9.5 qua. Ola. E ola, ola. Qua c'è questione locale. Ola, amico. Stiamo ascoltando. Chi questione locale? Questione locale. QSL, aquí la Sud de España, te saluda, cordiales saludos. Ya, Romeo Sesto, buonasera, ben ascoltado. Mucho ascoltado, mucho ascoltado. Para ti el señal de 9 Radio 5, aquí Radio Sparviero de la isla de Cerdeña, Città de Sassari. Señal 9, la Radio Super 5, también aquí por la España. Pues nada, venga, saludos cordiales, 7-3-5-1 para ti, componente. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, Romeo Siesto. 73 para ti e Toro Square A. Hasta la vista, ciao. Ciao, ciao, mio amico, ciao, ciao. Questo amico è tuo, eh? Non io, amico mio. Amico di razza. Hai inteso, amico. Sì, è un bel bene amico di razza. Ah, Paco, quello che ti dico è questo reparto. Mi lascio. Dicio, beh, dai, 9-10, ti ha passato questo, non so. Questo è molto forte, molto forte. Attento, amico, sta molto forte. Guarda che la macchina te lo mandò, no? Sto chiamando dalla isola di Sardegna, città di Sassari. Break! Ma che con il... La nostra lì la cartera, mo vi paga con il... Questa è il questione locale, questa isola di Sardegna, no? Il questione locale. Ok, a tua vista, hermano. Claudio dalla isola di Sardegna, città di Sassari. Buonas tardes. Attiendo un minuto che sta un break qua in questo locale. Avanti break. Non puoi... buonasera a tutti, doppio rumo. Ciao Gianni, buonasera, mi ascolta. Ascolta già, ma siccome devo portare quella radio di cose di Carlo dall'Albino, ma il microfono normale non ce l'ha quella radio. Ho già parlato con Carlo, là, non c'è problema. Ok, pensavo non ti avessi chiamato. Pensavo non ti avessi chiamato, ok, se hai già parlato con lui e sta bene. fatto il tuo centro aperto, lui si aveva solo quella in macchina, quindi senti a lui e vedi un po' cosa ti dice, perché se portiamo la radio là, cos'è che tu la prova? Se non tocca questa del mio, capito? Per provarla. Va bene, va bene. Tutto a posto. Avanti Massimiliano. Massimiliano di Forte di Ottava, cioè di San Giovanni. Ma ho sentito che c'era Malaga. Sì, sì, c'era Malaga, Pistacchio, poi Stracciatella. Si è assultato. Ha detto come stavo parlando. Pensava che ero in questo spagnolo, no, no. Già mi difendo, lo spagnolo lo difendo perché parlo un pochino bene. Però gli ho detto che appunto no, non sono a Malaga io, sono in Sardegna. Ma che arrivavano furti, ero in ascolto perché stavo facendo cose, arrivavano furti. Sono rientrato, scusa la claga, mi sono allontanato un secondo. Arrivavano furti già, e io mi abbassani a Massimiliano. A te no, tu sei 9.22, 9.5, con picchia 9.10. A Giumero Bassava, anzi, numero 7 la bando blu più della 9.15. Va bene, va bene, va bene, a pescare non ci sei andato. No, negativo. C'ero sempre in testa di andare qua, ma devo avere l'input. Ce l'ho in testa, c'ho le canne già pronte, c'ho tutto quanto, c'ho l'artificiale, tutto quanto, ma devo avere solo la voglia di farlo. L'altro giorno mi stava venendo perché sono andato lì al posto e hanno preso l'orata davanti a me, anche se non grande grande, ma bellina, là. E mi stava venendo la voglia, poi fai quello, fai l'altro, vai dalla dottoressa e cose varie, cavolo. Sempre pieno di impegni, allora ho un po' rimandato. Quindi lascia perdere. No, e se avete piaciuto, se qualche mattina fa piacere, diciamo a Franco. Però io non pesco come voi, non ci sono buono così. Mi armi la mia, c'ho tutto, mi metto in galleggiante, io mi mosio, ma galleggiante, così giusto per divertirmi, per farvi compagnia, non sono buono a lanciare, a fare come fate voi, no? Non vi gioco buono, capito? Sì, quindi, mamma mia, nasciamo una mattina, devo accompagnare a mia figlia al lavoro, che è a fermare alle 7:30. Poi devo tornare a casa, alle 10 devo prendere Filippo, portarlo da Monica a lavare, tagliare le unghie e sistemarlo bene. Poi devo tornare a casa, portare a Filippo, alle 4 devo tornare a uscire, andare a tornare a mia figlia. Ma sono tutto impegnato, porca puttana. Vabbè, come tutti, dai. Anch'io ci sono uscito, sono andato con Marco a fare una commissione, eccetera, eccetera, e poi abbiamo avuto da fare. Poi sono andato a prendermi un caffè con un amico e via, e mi sono dura da casa. E cosa devi fare? Sì, ma non c'è problema, basta andare. Bisogna, io voglio andare proprio a Seppi e a Calamari, capito? Col finto. Quello mi piace, quello mi attestava forte. Però bisogna andare la notte. Vabbè, adesso inizia il tempo bello, nel senso che non c'è freddo, si può stare, ci sta anche. A Calamari, quello già mi piace, quello sì, perché lanci così, poi recuperi piano piano, ma lanciare come fai tu, Franco, c'è la pesca, quello che fate voi, io non sono buono. Ma io organizzate, di venerdì io vengo anch'io. Rega, di abbipalo, Non diteli dove è, Budosa, che poi vi fa gli schifo. Ciao già. Ma io organizzate, vengo anche io a pescare. Portate da bere. Tu Patelle sai fare il buco. Non ti preoccupare, io ho anche le calle. No, io non aggiungo una, giuro, però non è un problema perché lo dico a Franco, ma era quanto mi voglio. Anche la mia era la città di Breccia, faccio uno a Franco e parlo con loro, faccio mettere il galleggiante, mi bocio, frigo, birrettina, ma a me è già, perché sono appoggiando una volta. Quindi come si chiama dove si andato a il passetto, che ci si chiama? È il passetto. Ma a me dentro il bolso non mi piace, la mare di forci qua, no, dentro il bolso. No, beh, che dove va Gianni? Roba di orate prendono lì, ma già un pesce di me. Non so mi dov'è il passetto, ci sono andato tante volte, ma non mi piace lì dentro. fare il furo è meglio. Beh, intanto il pesce gira, me, Massimiliano. Il pesce per dire le orate dove stanno santieri, girano e poi tornano a mangiare, vengono a mangiare e poi se ne vanno verso il furo. E organizzate così vi faccio a becca. Ascolta, a Fertilia non ti piace, non sei mai andato? Sì, a Fertilia sono andato, Massimiliano, sono andato con degli amici e ho preso una busta di boghe, ci avevo delle cose sotto sale che io le tenevo sempre il frigorifero, in modo che se non ci avevo esca toglievo quelle e innescavo la cosa sotto sale, attiro l'una, chi sa perché me non impigliava di una a fianco a me. Cioè, organizzate di venerdì si può fare, ma senza fare manco la nottata, vai lì verso le 7, 7:30, a mezzanotte ti andiamo. Ma no, per Fertilia? No, anche qua giù vicino, a Porto Torre, se hai rocette bianche, serve, si pesca bene anche. Si pesca bene anche sotto la chiesa di Palari, quella che sui scogli, però un po' più avanti. Già lo so, ma lì devi pescare dall'alto e quando tiri sul pesce sai quante volte ti cade giù, quando sono pezzi grossi, ui. No, già, ti stai confondendo. Quando tu scendi le scale della chiesa, passi a fianco la chiesa e vai altri 100 metri a piedi e sei a livello del mare, non sei? Io ho capito come stai dicendo tu. Sopra lo scoglio dell'ancora stai dicendo tu, io non vado lì. Eia, no, ma tu stai parlando di una chiesa di Balai lontano o di Balai vicino? Di Balai vicino, ci sono, c'è a fianco i gradini, c'è la strada, passi lì e ci sono tutti quei blocchi di cemento, fai altri 50 metri più avanti della chiesa e sei a livello del mare. Ma lì puoi pescare solo con galleggiante, Massimiliano? Galleggiante anche a fondo, io ho preso anche a fondo lì. Che si incaglia parecchio perché o se no, già, se organizziamo possiamo andare al presidio con la canna da pesca in spiaggia, carichiamo un ombrellone per l'umidità, se vuoi musotto, se vuoi una cacciavita ti andiamo. Al presidio militare adesso non so come sia, se stanno mettendo parametri e roba del genere, però l'ultimo periodo che sono andato io lì stavano mettendo dei parametri, non si pigliava nulla e poi si prendevano solo le razzette, quelle razze piccole, bombasse, non pigliavi altro. Vabbè, se capita che andate fatemi sapere qualcosa, a me già mi piace passare un paio d'ore, è giusto uno svago perché io vado a pescare e mi svago a fare. Vabbè, avanti Spalvia. Vai Natalia, sì. E io organizziamo una gara di pesca fra tutti i cibi. Ma cosa la gara? A tutti i dini. Loggia. Io ho un cane da 13, cosa? Io vado lì, mi passo un paio d'ore, mi diverto. Boh, se ne piglio ne piglio, se non ne piglio me la finita, devo essere sincero. E siamo tutti così, mi Massimiliano, tu dici, là ti ripiglia di sempre, c'è il giorno che ne prendi, il giorno che non ne prendi. Vabbè, ma no, cioè, ci vuole anche la bravura, nel senso che devi essere anche bravo a lanciare, a fare, a male. Io non so come lo male, se si mi si incoccio non mi so come lo male, mi a fare un nuovo all'ammo. Ok, tu ti vuole vedere da me, non ti preoccupare, te lo faccio io. Io ti faccio l'amo e tu metti il bicchierino di birra, non ti preoccupare. Sì, per quello sono bravissimo, non c'è problema. Andiamo d'accordo, non ti preoccupare, io non sono questo grande fanatico, noi facciamo pescare i bravi e noi diventiamo da abbati. Claudio, bisogna fare come faccio io c'ho un sughero, praticamente faccio già tutti gli ami pronti con il terminale e l'occhiello in punta. Quando poi arrivo lì c'è il moschettone, attacco l'occhiello al moschettone, gioco a fuce, se perdo l'amo ne prendo un altro e lo attacco. Sei già pronto. No, io faccio come ho fatto, ti ricordi già? Aspetto il peschereccio, quando il peschereccio parcheggia mi butto tutto il pesce via da Sado e la valla. Ah, la zionda, che te lo che botto? Allora, scusate un secondo, là, io mi devo allontanare un attimo, vado a misurare la pressione, un attimino mio padre, pure ritorno, là, ok? Sì. Ehi, va bene, Massimiliano. Ti la metti il posto delle seppie, capibiliamo, se no le ombrine. Ehi, allora se mi ricordo, alla grande. Finalmente dove hanno entrato il peschereccio, sai già fatto io. Sì, si è alzato in lanterna a rete e le pigliate tutto canto la ziota. E tu la mucca di ziota mangi già fatto, con una vidiera, con le rosse, certo fritte, la fine del mondo era un e pensare è claro che prima quello lì se li avevano dalle reti li vedevo io, li buttavo nel mare. Adesso sono pulungari, a 13, a 14 del 20. Io lo so sì, sono care sì. Perché mamma comprava solo quelle, da friggere quelle, le barchette, la barchetta dei cigatti di re, come si chiamano quelli lì, per fare la frittura, ma la zionda era la migliore che c'era. Le donzelle si chiamano, donzelle. Se no, per fare il fritto, sì, ci sono anche quei mangiatutto, che sono un bel botto. Questi mangiatutto sono fenomenali. E poi si chiamano acquerelle, le mangiatutto si chiamano così perché si mangiano tutti, però in italiano si chiamano acquerelle. Acquerelle, sì, si chiama. Cavagata, sì, acquerelle. E guarda che io prima pescavo con esche fatte da me, ne prendevo un po' di cotte, le aprivo, le mettevo sotto il sale e le mettevo in freezer. E quella era l'esca che usavo quando non avevo altra esca. Se per dire capitava di domenica che era tutto chiuso, io prendevo e andavo lo stesso a pescare. Gappa, gappa. Non so vedere, mi sembra che è arrivata mia figlia, aspetta. Attento mio hermano, se va a scusciare la Sardinia, adelante per un comprendito. Attento mio hermano, se va a scusciare l'isola della Sardinia, adelante per un comprendito. Finita la propagazione. Via. No, già ci sono sempre, ma sono bassi. Ecco, già li sento. Ciao già. Ciao fra, l'hai sentito, va. Sì, stavo provando a vedere, va. Se non c'è propagazione. Ecco, poco fa arrivavano, ho sentito che arrivavano forti. Poco fa, quando stavamo parlando con Claudio Massimiliano, arrivavano forti, anche Santiago 9, 9, 5. Ecco, sì, sì. E vabbè, qua non lo quantifico perché nel Galax... lo comprendo, è molto più basso dell'altro. In che senso? Non segna bene lo smitter? Sicuramente è più basso lo smitter, dà meno segnale. È molto più basso, io sento i segnali più bassi con questo. No, il mio era perfetto, il mio segnava giusto. Ho già provato con altri apparecchi e segnava uguale. Quando ci avevo 140 l'ho controllato, era preciso di segnare. Ecco. Vabbè, si può regolare, là. Già si può fare. No, non è da regolare. Mi chiedi a Claudio che aveva lo stesso problema. Mi ha cambiato una resistenza, qualcosa del genere, adesso va bene. Oh. E vabbè. E dopo lo fuori, basta. E da qualcuno non ci sarà. E a Sassa di solo Vittorio li fa, Vittorio Giove, ma non li fa tutti. Li fa solo a poche persone. Ah, da Vittorio. Vittorio. E l'ha contato Vittorio Baracchini. Ma non è fa lui fa roba, altra roba. Ma da poco ci aveva il mio di baracchino, quindi li fa però le fa poche persone. No, non me la ritrova più dentro perché era incasinato, penso che ci voleva troppo tempo. Yes. Com'è questa la modulazione già? Già è chiara, sì, già è chiara. Questo è lo Shurer. Lo Shurer? Aggiustatola. Ehi. Dentro nella scheda non c'è niente di rivelazione, c'è solo quel pomello sopra e basta. No, la radio già è chiara, dico la verità, ma non è che sta spingendo più di tanto, sì, è chiara, è abbastanza amplificata, ma non è che spinga come mi ricordo io, ce l'aveva lo Schuller, non so se tu ti ricordi, ce l'aveva Don Diego, perché parla tanti anni fa. E usciva una bomba, ma proprio forte, cazzo, quando già, quando capitava Edu, non passava nessuno. Cazzo, vabbè, questo è il primo, non il primo, il secondo, il due è questo, magari era l'altro più lungo. Non lo so questo, non te lo so dire, però andava molto più, ma comunque questo qui va bene, mi. E a livello cosa ti posso dire di un MB più 4? Capo, va bene, allora già va bene, non è male, va. No, no, la modulazione è chiarissima, no? Non ti posso dire nulla, ma non è che spinga più di tanto, è quello, pensavo che spingesse di più. L'altra più chiara, più chiara l'altra era, e vabbè, adesso gli ho messo, allora aspetta, ecco qua, adesso gli ho abbassato a zero la, il coso della potenza della radio, così è forte, già va bene, prova a metterla un attimo. Che quello voglio sentire senza linea. Così è con la potenza massima della radio e basta. Vedi, così è chiara e forte, là. E va bene. Come attacchi il coso 747 te la abbassa leggermente, ma non più di tanto. Già lascio così, lascio, dai. Poi guardo a vedere se arriva a 10 questo di potenza, lo aumento un po', perché arriva solo a 8. Quanto ti saranno di potenza il Galaxy? Allora, adesso mi sta dando 7 watt, 7 watt è la potenza muta e 10 modulati. Al massimo? Al massimo. Mentre invece al minimo quanto ti dà? Al minimo mi dà 3 watt. È già regolato bene, là. È regolato abbastanza bene. Ecco, minimo 3 watt, 6 watt modulati, 5-6 watt, da. Già va bene, già va bene. L'ho lasciato così perché probabilmente l'attacco lineare almeno non distorce. Io fra... sto usando 2 watt adesso, non so come mi stai ascoltando e come sono di segnale. Con 2 watt sto uscendo. Allora. Ho capito, dai. Guarda adesso quanto ti arrivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso sei 9, 9 giusto giusto. Radio 5. Sono entrato già, ciao Fra. Sì, allora riprendi qua. C'è qualcuno che stava parlando, aspetta il telefono, riprendi Fra. Sai che provo un altro microfono, Gian? Cosa? Non ho capito. Ok, questo com'è il microfono, Gian? Allora, questo c'ha una leggera alternata, pure più forte. Capo. Questa è l'M300. Quella deve essere, sai che cosa? Una questione di massa. Prova a mettertelo sulla gamba il microfono, un attimino. Perché? Cosa fa? Vedi a vedere? No, fra la stessa cosa, lo fa lo stesso, perché io ho il turner che è così, lo metti sul piano.